questo documentario educational fa parte di una serie che abbiamo inaugurato l'anno scorso in collaborazione con Ampi Bologna, di educational per i ragazzi delle scuole. L'anno scorso presentammo il Biennio Nero, lo squadrismo in Emilia Romagna 1920-1922, un film realizzato insieme a dei ragazzini delle scuole medie. Quest'anno il tema invece è il 43 e la scelta, e abbiamo coinvolto dei ragazzi più grandi, dei licei di Bologna, dal Galvani al Copernico alle Laura Bassi. Perché i ragazzi? Perché praticamente i ragazzi loro coetanei di 80 anni fa si trovarono in una situazione drammatica ed eccezionale, nella quale furono costretti a prendere una scelta. Di fatto i diciottenni o erano negli eserciti del ricostituito partito fascista repubblichino, oppure andavano in clandestinità. E noi da quella base, da quello spunto, abbiamo tratto l'idea per questo nuovo documentario, attraverso un viaggio, diciamo, in alcuni luoghi emblematici della resistenza nella nostra regione, e abbiamo utilizzato tra l'altro anche del materiale di repertorio, in parte edito, in parte inedito, che avevamo raccolto per The Forgotten Front. C'è da poco stato l'ottantesimo dell'8 settembre, è quel momento in cui appunto i giovani dovevano compiere una scelta. Come hanno affrontato, diciamo, anche nelle riflessioni i giovani di oggi una scelta di quel tipo? Ma guarda, abbiamo utilizzato un espediente molto coinvolgente. Avevamo raccolto durante il lavoro su The Forgotten Front delle interviste che giacevano al pari fin dagli anni 80 su cassetta audio, cosa che voi conoscete bene, insomma, no? E non erano mai state digitalizzate, ed erano interviste fatte negli anni 80 a ex partigiani che partivano nel loro racconto proprio da quel momento, cioè dal momento della scelta. Abbiamo recuperato alcuni spezzoni e glieli abbiamo fatti sentire, e da lì le loro riflessioni. Però a noi in effetti la cosa che interessava era il loro coinvolgimento, quindi il film è praticamente un rimbalzo continuo tra la situazione di 80 anni fa, ma anche sul significato di scelta che i giovani percepiscono adesso e sul loro ruolo nella società, che chiaramente è molto diversa da quella di 80 anni fa. Quindi abbiamo cercato anche di renderli il più possibile protagonisti e non solo spettatori o commentatori di fatto. Noi viviamo in un'epoca che anche a causa dei social network è molto polarizzata, bianco-nero. Immagino che invece anche di fronte a scelte, sia nel presente che quelle storiche, come dire, emerga una complessità. Ma assolutamente sì. Devo dire che le riflessioni che fanno queste ragazze e questi ragazzi sono molto interessanti. Da un lato, appunto, si evince come la loro libertà ovviamente sia amplissima, ma come questa a volte diventi una prigione per certi aspetti, cioè una richiesta della società sempre di scegliere qualcosa senza chiedersi bene però che cosa in effetti scelgano. La loro anche insomma a volte difficoltà a scegliere, e al tempo stesso però una riflessione anche interessante su come la drammaticità di quei tempi comunque rendeva le persone importanti, no? In un qualche modo, cioè la tua scelta poteva e sentivi che poteva essere decisiva. Molti ci dicevano: noi non è che ci sentiamo così importanti nella società di adesso. Quindi insomma escono delle cose che sono a nostro avviso anche interessanti su questa nuova generazione. Domenica prossima ci sarà la presentazione al Modernissimo, vuoi darci qualche riferimento? Sì, allora con grande piacere la Cineteca ci ha invitato al Modernissimo, la proiezione sarà alle 19:30 e quindi chiaramente aspettiamo tutti e cogliamo anche questa occasione per invitarvi il giorno della Liberazione a vedere un film che a nostro avviso è molto interessante, e tra l'altro con dei, diciamo, dei contributi anche di storici, da Luca Alessandrini, Luca Baldissarra, Miro Gori, Luca Zirò, che ci accompagnano in questo viaggio. Quindi l'invito è ovviamente 19:30 domenica 21 aprile lì in centro al Modernissimo.